America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Hello Detroit! Oh, it's good to be back in Michigan. Barack Obama a Detroit al Salone dell'Auto ha parlato ieri, rivendicando il merito di aver rilanciato questo settore chiave per l'economia americana. In effetti le auto, come ha detto Barack Obama, hanno venduto a livelli record l'anno scorso oltre 15 milioni di auto, cosa di cui ha detto vado orgogliosissimo. E Obama è stato anche molto ottimista sulla situazione economica americana. Qual è il problema? Che mentre parlava la borsa a New York, quasi nello stesso momento, perdeva il 3%. Ecco, non che ci fosse una correlazione diretta, però c'è una dicotomia oggi seria, grave e preoccupante tra l'economia finanziaria e l'economia reale. C'è da aggiungere che l'economia reale sta soffrendo perché soprattutto nel settore manifatturiero ci sono stati dei problemi. Anche il settore immobiliare ha mostrato qualche elemento di debolezza, ma il settore manifatturiero ha avuto delle accumulazioni di scorte di magazzino che preoccupano guardando in avanti. Però l'economia americana dovrebbe essere solida perché la stragrande parte dell'economia poggia sui consumi e i consumi per ora tengono. Il tasso di disoccupazione è buono. Dunque, la domanda davanti a queste follie di borsa, vi dicevo, la borsa americana ha perso il 3% a un certo punto, poi ha recuperato, in chiusura ha lasciato sul campo soltanto l'1,56%, soltanto, tutto è relativo, quota 15.766, tutto è relativo perché se confrontiamo quello che è successo a New York con quello che è successo in Europa, l'America è stato in qualche modo un punto di riferimento più stabile. Resta il fatto che anche a New York il Dow Jones perde il 12,8% dai massimi del 21 maggio scorso a quota 18.351,40. Come ne usciremo? Non siamo ancora in recessione, siamo in correzione, c'è il rischio che l'economia finanziaria trascini l'economia reale? Insomma, non lo sappiamo, però ieri pomeriggio ho incontrato qui a New York al Council on Foreign Relations Martin Feldstein, grande economista americano, presidente emerito del National Council Bureau of Statistics, quindi di quell'istituto che sancisce l'ingresso, l'uscita dell'economia americana da una recessione. The original idea was that by having a single currency. Ecco, Feldstein è preoccupato, ritiene che uno dei maggiori responsabili di questa situazione negli Stati Uniti sia la Federal Reserve, ha creato troppa liquidità sul mercato, le borse sono andate su livelli troppo elevati, non dovevano salire come sono salite, ci sono delle sopravvalutazioni secondo Feldstein addirittura del 30% nello Standard & Poor's rispetto alla media storica, e dunque pensa che la correzione continuerà, pensa che la Fed dovrebbe accelerare il ritmo con cui stringerà i tassi di interesse per ritornare a una situazione più normale, e ritiene che le correzioni continueranno e che forse ci saranno delle code sull'economia. Ecco, di questo parlo con Luigi Zingales, professore di economia alla Chicago University, grande esperto di questioni americane ma anche di questioni italiane, per avere un po' il polso della situazione. Buongiorno Luigi. Buongiorno Mario. Eccoci, un po' che non ci sentiamo, direi che l'occasione purtroppo non è delle migliori, perché abbiamo una borsa molto instabile su vari fronti, quello europeo, quello americano, l'America in realtà poi un po' ha recuperato, ma come hai sentito parlavo di Martin Feldstein, il quale è preoccupato, vede dei problemi davanti a noi e ritiene che, come dire, i nodi verranno al pettine perché la Fed ha fatto una politica monetaria troppo aggressiva, soprattutto non è partita con una restrizione dei tassi in tempo e oggi secondo lui dovrebbe stringerli molto di più. Condividi? Perché io dicevo che insomma il rischio è che stringendo troppo poi si creano ulteriori problemi di altro genere sui mercati. Certo, innanzitutto io direi che la situazione americana, forse la borsa è corsa troppo in passato, però la situazione reale americana complessivamente è positiva e io guarderei quella prima di tutto. Se sarà una correzione di borsa, ci sarà una correzione di borsa, ma questo non dovrebbe secondo me sconvolgere la situazione. Non sarei dell'idea di accelerare questa restrizione anche per non uccidere l'economia reale, che alla fine è la cosa più importante. Ecco, però sappiamo benissimo che ormai abbiamo due economie, abbiamo un'economia reale e un'economia finanziaria, e purtroppo spesso le recessioni o le crisi negli ultimi tempi sono partite più che da un normale ciclo, da una grave crisi del settore finanziario. Ecco, credi di poterlo escludere in questa fase congiunturale? Negli Stati Stati Uniti sì, ricordiamoci che grosse cadute di borsa che non hanno avuto implicazioni nel sistema bancario come la crisi dell'87 hanno avuto uno zero impatto sull'economia. Quindi il vero problema è quando si ha una crisi finanziaria che coinvolge le banche, il settore creditizio, eccetera, eccetera, e non mi sembra che siamo in questa situazione negli Stati Uniti. No, anche perché in effetti le banche, tra l'altro, hanno ricostituito le loro posizioni di capitale, sono molto solide, sembrano essere in controllo della situazione. Le aziende americane hanno contante, cassa per migliaia di miliardi di dollari, pensiamo soltanto all'Apple Computer che ha oltre 200 miliardi di dollari in cassa. Ecco, ma vediamo invece la situazione italiana, perché tu conosci a fondo il nostro paese, conosci soprattutto le banche, le grandi aziende, e noi stiamo invece soffrendo di una crisi nel settore bancario. Ecco, sei molto preoccupato, poco preoccupato? Che via di uscita vedi? Quali errori identifichi? Io sono molto preoccupato e non lo sono da adesso quando sono crollati i titoli, lo sono dalla fine dell'anno scorso quando con Luigi Guiso abbiamo scritto proprio sul Sole un articolo dicendo guardate state attenti perché il bail-in pur essendo giusto introdotto in questo momento in Italia può avere delle ripercussioni molto negative e secondo me quello che noi stiamo vedendo sono esattamente queste ripercussioni negative. Le famiglie hanno paura di dove investire i propri risparmi, sono state bruciate e cominciano a spostarli verso le banche di cui si fidano di più e questo crea una forte tensione sul mercato bancario. Ecco, forse si doveva intervenire secondo te quando ci sono state le prime avvisaglie con Banca Etruria, con quelle altre banche da cui poi è partito un po' l'ultimo episodio della crisi. Qualcuno faceva dei calcoli, mi diceva che se si fossero salvati i depositi di tutti e comunque i conti, gli investimenti di tutti, anche degli obbligazionari più a rischio, il costo sarebbe stato tutto sommato molto più contenuto di quello che poi potrebbe essere un costo attuale. Ecco, c'è stato un errore di tempistica secondo te? Ma secondo me l'errore di tempistica è stato un po' diverso, cioè noi arriviamo in Italia all'introduzione del bail-in con delle banche che hanno ancora troppo finanziamento presso la propria clientela, a differenza degli altri paesi dove la maggior parte delle obbligazioni bancarie, non parliamo solo dei subordinati ma anche delle obbligazioni bancarie, è piazzata sul mercato istituzionale. In Italia c'è ancora una fetta abbastanza grossa, direi dell'8-9%, che però diventa fondamentale per le piccole banche, che è piazzata presso la clientela. Ora, il bail-in, il meccanismo diciamo, scelto dall'Europa, ha una sua logica quando gli investitori sono investitori istituzionali ben diversificati. Diventa invece una tragedia quando gli investitori nei bond bancari, nelle obbligazioni bancarie, non sono investitori istituzionali ben diversificati, ma sono famiglie che non sono state consigliate propriamente e hanno un'eccessiva concentrazione del proprio risparmio in uno o due titoli bancari. Ecco, come ne usciamo? Io l'altro giorno ne parlavo con Claudio Costamagna, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, chiedendo se c'erano alcuni americani interessati, facevano una specie di roadshow qui in America per vendere il rischio Italia, e questo ovviamente in questa situazione non può che soffrirne, se c'erano istituzioni bancarie americane interessate. Mi diceva di no. Come vedi la situazione? Pensi che qualche istituzione internazionale possa essere interessato a intervenire? Qual è secondo te la via d'uscita per stabilizzare la situazione? Perché la cosa più urgente e importante mi sembra quella. Beh, purtroppo stiamo perdendo tempo, cioè il 30 di dicembre con Luigi Guiso abbiamo scritto questo articolo proponendo una sospensione temporanea del bail-in in cambio di alcune misure di riforma, però nessuno ci ha badato. Oggi siamo a, secondo me, una situazione deteriorata per cui non è neanche detto che una sospensione del bail-in possa avere un effetto positivo, potrebbe addirittura avere un effetto negativo perché la gente capisce che la situazione è deteriorata. Secondo me siamo al punto che l'unica soluzione veloce che possa fare il governo italiano è una specie di TARP all'italiana, come ho scritto ieri su Sole 24 Ore. L'unica soluzione è un'emissione di capitale azionario da parte del governo o della Cassa Depositi e Prestiti che in qualche modo ricapitalizzi le banche e quindi dia fiducia che le banche non sono a rischio di bail-in. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.